carri armati. Verità, quella verità che rende ciechi sordi e poi diversamente muti. Verità, la verità, quella che sai e la sai per istinto e non è mai quella di chi ha vinto. Verità, oh verità, quella sepolta da cumuli di sabbia, quella distorta che sveglia la tua rabbia. E non so se ho dentro tutta la rabbia che mi sento, non so se dentro o fuori, se rabbia in bianco e nero oppure rabbia a colori, non so se rabbia è nata o rabbia che riporto, se rabbia con una ragione o dettata da sentirmi torto, se rabbia di rabbia o rabbia di malinconia. Se solo sana rabbia sono io a farne una malattia. Verità, la verità dei papi e degli ayatollah. Verità di gamba corta, verità, la verità di guardia sulla torre che se dormi suona alla tua porta. Verità, tutta la verità, giurata sulla Bibbia con la mano.